This is not an exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Kakav duh to mene vodi, šta to mojoj duši godi, kakav zvuk je sad u modi. Hajde, hajde sad pogodi, kakav duh to mene vodi, šta to mojoj duši godi, kakav zvuk je sad u modi. Buka, buka mene vodi, buka mojoj duši godi, kao uvek kod mene biće, buka, buka u vodi. Buka u vodi, buka u vodi. Kakav duh to mene vodi, šta to mojoj duši godi, kakav zvuk je sad u modi, šta je ono što ja želim, šta ja hoću bit će sreli, šta to hladno čini vreli, čemu uvek se veseli. Hajde, hajde sad pogodi, kakav duh to mene vodi, šta to mojoj duši godi, kakav zvuk je sad u modi. Buka, buka mene vodi, buka mojoj duši godi, da uvek kod mene bit će. Buka, buka u vodi. Buka u vodi. Buka u vodi. Buka u vodi. Buka u vodi. Buka u vodi. Buka u vodi. Buka u vodi. Buka u vodi. Hey! Buka. Kakav duh to mene vodi, šta to mojoj duši godi, kakav zvuk je sad u vodi. Buka, buka mene vodi, buka mojoj duši godi, da uvek od mene biće, buka, buka u vodi. Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Città del Capo, questa è This is not an exit, giovedì 23 marzo 2017, benvenuto Dottor Scarpa. Buonasera a tutti e a tutti, sì, ci troviamo di nuovo qui sulle frequenze di Radio Città del Capo per questa nuova diretta. Stasera parliamo di davvero qualcosa di molto vicino ma anche molto lontano, fra virgolette, è vero Babbe? Sì, ne avevamo già parlato a dicembre, avevamo parlato di quello che era la scena jugoslava negli anni 80, verso la fine degli anni 80. Bene, Caterina, intanto benvenuta. Ciao, grazie. È tornata qua in studio con noi e questa volta ci parlerà di quello che è diventata negli anni 90 la scena musicale jugoslava. Vabbè, direi che il compito di stasera sarà abbastanza difficile, perché dopo un periodo abbastanza produttivo, il periodo degli anni 80, stasera mi tocca parlare degli anni 90, dove succede tutto e di più, gli anni abbastanza tormentati nel territorio dei Balcani e della ex Jugoslavia, all'inizio tormentati appunto dalla guerra civile, dove la musica praticamente in qualche modo sopravvive, cambia tantissimo anche dal punto di vista di qualità soprattutto, però sopravvive. La guerra civile inizia nel 1992 e dopodiché succedono tantissime cose, appunto succedono le cose anche interessanti, tipo la comparsa di una corrente musicale abbastanza anomala che si chiama Turbo Folk, ma nello stesso tempo che nasce appunto alla Serbia, poi si allarga sulle altre zone, ma nello stesso tempo nascono anche le band che fanno la protesta contro la guerra e così via, ma anche le band che seguono le tendenze internazionali come quella di pop rock, indie rock, rock alternativo, rap ovviamente, e anche la musica dance, così che è appunto la caratteristica degli anni 90. Il primo brano che abbiamo ascoltato è un brano dal 1990, quindi prima della guerra, con il quale vi volevo illustrare, cioè mettere appunto un lavoro di un gruppo che nasce anche negli anni 80 ed era anche famoso negli anni 80, però è un esempio di un gruppo che scompare prima della guerra, perché il frontman si trasferisce a Londra per poter continuare appunto la sua carriera musicale, dove vive e lavora anche adesso. Sve prisutno Siete sempre a This Is Not An Exit. Ci piace qui a Radio Città del Capo ripescare sonorità perdute, perdute della memoria, e ci piace farle riaffiorare. Poi magari molti di voi hanno sentito parlare della Jugoslavia degli anni 90, della dissoluzione dello Stato jugoslavo, ma io non so quanto arrivasse di musica di quegli anni su queste frequenze 25 anni fa. Penso poco, quindi sono molto contento che Caterina sia qua a raccontarci cosa suonava magari nelle radio di Belgrado o dintorni. E non solo nelle radio, ma anche nelle strade. Per esempio, la canzone che abbiamo appena ascoltato ha un significato molto importante per quei tempi lì, perché è una canzone del 92, 1992 appunto inizia la guerra, era già chiaro che la guerra stava per iniziare. I membri di tre famosissime band si mettono insieme e fanno questa canzone, prendendosi poi dopo anche un canto camion iniziando a girare le strade di Belgrado, facendo i concerti per mesi e soprattutto cantando questa canzone, che vuol dire Mir Brate Mir, ovvero vuol dire pace, fratello, pace. Era una forma di protesta contro la guerra che stava iniziando, contro la mobilizzazione militare forzata, e quindi ed era seguita da tantissime persone che uscivano nelle piazze, strade, eccetera, per dimostrare anche il proprio stupore e lo shock di quello che stava succedendo. Questa band era una band particolare, formata da membri di altre band che anni prima erano diventati piuttosto famosi. Esatto, sì, i gruppi appunto si chiamano Ekaterina Velika, Electrician Orgasm, Party Breakers. Ci sono anche, cioè, questa canzone è fatta dai versi abbastanza, cioè, diciamo, aggressivi anche. I versi più famosi dicono, per esempio, spara di meno, scoppa di più, oppure la pace è la fidanzata più preziosa, oppure sei troppo giovane per morire, e così via. Ma si vede che alla fine dei conti ha servito a poco questa iniziativa. Infatti il 24 marzo ufficialmente inizia la guerra in Bosnia, e la Bosnia era una ex repubblica multietnica che si divide dopo la guerra nella parte serba, la parte croata e la parte musulmana. Come lo era il paese, lo erano anche le band durante l'ex Jugoslavia, appunto, multietniche, e anche le band durante la guerra si scompaiono, si separano. Una di queste era anche Bijelo Dugme, l'ex gruppo di Goran Bregovic, che forse era uno dei più famosi gruppi dell'ex Jugoslavia, ma ce n'era anche un'altra che si chiama Zabranjeno Pušenje, ovvero vietato fumare. Questa band è particolare perché appena inizia la guerra la band si separa nella frazione croata, che continua a vivere e fare la musica in Zagabria, la frazione serba, che continua a fare la musica a Belgrado. Quindi per diversi anni coesistono due band con il nome uguale, Vietato Fumare, fino al 1999, quando la band di Belgrado inizia la collaborazione con il famoso regista Emir Kusturica, che cambia praticamente il nome in No Smoking Orchestra e inizia a fare anche delle tour con Kusturica. E se mi ricordo bene, uno dei concerti era annunciato anche per il Bravo Caffè qui a Bologna qualche anno fa, poi è stato cancellato. Allora ascoltiamo, adesso vi mettiamo la canzone che si chiama Il figlio di papà, Guzan Insin, dall'ultimo album del gruppo unito nel 1989. Stavo, jel vam se sviđa pol, a? Ne kontam. U mojoj ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojoj ulici nema fukare, jer ja sam Guzonin sin. Oko mene rastu čempres i drapc, večeras imam parti, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze kod mene, jer ja sam Guzonin sin. Ja sam Guzonin sin! Sa sobom nosim svoj malo. novoga poršera i palko ću se voziti s njim. Jer ja sam uzem pisu. Jer ja sam guzom pisu. Jer ja sam guzonjici. Jer ja sam guzonjici. Beh, prima Catarina ha parlato di Kusturica, Emil Kusturica nella prima metà degli anni 90 forse era l'unica, una tra le poche espressioni culturali che usciva dalla Jugoslavia, poi Goran Bregovic qualche anno dopo che firmava le colonne sonore dei suoi film, poco altro. Sì, all'inizio io adesso vorrei finalmente arrivare al discorso e all'argomento di Turbo Folk. Turbo folk è un termine inventato da un famoso musicista montenegrino che si chiama Rambo Amadeus, che ascolteremo dopo. Prima di tutto, cioè, dovete immaginare la Serbia in quel periodo, un paese nel buio totale, isolato dall'embargo, in guerra, con una importante crisi economica. E questa crisi e isolamento continuano anche dopo la guerra nei Balcani, fino agli anni 2000, e dovete anche ricordarvi che nel 99 c'era anche il bombardamento dalla parte di NATO sulla Serbia, quindi un periodo, un decennio abbastanza movimentato e dinamico. Allora io in quel periodo avevo poco meno di 20 anni e mi ricordo che all'epoca la musica attuale di scena mondiale, di scena internazionale da noi arrivava grazie a quelli che chiamavamo tutti i bulgari, ovvero i dischi bulgari, che erano praticamente i CD, i dischi masterizzati in Bulgaria, delle copie di tutta la musica attuale, ma non solo la musica, anche dei film che uscivano in quel momento in Europa o negli Stati Uniti. Questi dischi, ce n'erano dei ragazzi per le strade, alcune strade che vendevano questi dischi che costavano anche pochissimo ed era una cosa che ci ha cambiato praticamente la gioventù. Nel 1991 uno dei famosi all'epoca DJ che si chiama Wise gestiva diverse radiostazioni abusive e in queste radio gli è venuto in mente di combinare la musica dance dell'epoca con la musica folk dei Balcani e così è nato Turbo Folk. Turbo Folk io non so, direi che si può definire anche come una appunto anomalia musicale che diventa subito accettata perché stimolava gli istinti basali, aveva i testi senza senso, le cantanti giovani mezza nude o quasi nude, con anche nelle ragazze, le ragazze nei video musicali apparivano sempre poco vestite, erano dei video molto aggressivi da quel punto di vista. All'epoca iniziano anche le discoteche, ovvero folkoteche, ovvero le discoteche dove si ascoltava questo tipo di musica, che frequentavano i ricchi, i nuovi businessmen della guerra che attiravano le ragazze giovani che loro vedevano praticamente un'opportunità per una vita migliore. Insomma, cioè, tutti i fenomeni dei paesi in guerra e in transizione. Per avvicinarvi il concetto, ascoltiamo quella che è considerata la canzone che ha lanciato il turbo folk e si chiama 200 all'ora. È stata fatta nel 1994 ed è praticamente un cover di No Limits di Two Unlimited. E adesso la sentirete, vi prego, non cambiate la radio. We'll be right back. notte. Bežim iz grada, do daske gaz, furam na more, da moj je spas. Benzin u krvi, uz burko se, nagazijače, manijače. Vozač bez mane, ne zna za strah, ulica duga, totalni mrak. Stisni do daske, pretekni sve, nagazijače, manijače. Non penso che nel 1994 in Jugoslavia il copyright fosse un gran problema, i Cure Unlimited avrebbero avuto qualcosa da ridire. Molte problemi. Oppure no, non lo so, forse si vergognerebbero anche loro. Allora, come risposta a questo strano fenomeno si formano anche delle band che suonano pop rock anche dagli anni 92 eccetera, facendo la protesta contro turbo folk, e queste band sono considerate quelle che hanno fatto il revival della scena pop rock nell'ex Jugoslavia. Allora si formano le band che si chiamano per esempio Eva Braun, Rouge Protivotmi, Cera Cristalli eccetera, e adesso ascoltiamo Eva Braun con la canzone Un giorno comune dal 1995. Igra kreće, ja već nalazim se. Vrebam pogled, tvoj pogled vreba me. I brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak. Samo šapat, ne čujan ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava. Ispod stola, dodir tvoga kolena. Tam i strah od novog buđenja i pokret oka prepara ko navika. Laki drtaj naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan. Sasvim običan. običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi ponadam. Već sam tu, vičem u sebi, još samo ovaj put. Tražim izlaz, beg i zabluda, a tvoja ruka me poziva. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dotir. Sasvim običan dan, sasvim običan dan. Tražim sve što treba da dam, jedan naglo prekinut san. Ne brine mi ponadam, sasvim običan dan. Thank you. Radio Città del Capo 94.7, 96.250. Oggi parliamo appunto della scena dell'ex Jugoslavia, Serbia, ma non solo. Oh, c'è qualche influenza californiana, americana. Qua si sente tutta, sì, sicuramente hardcore melodico, quello che davvero passava tantissimo anche in Italia. Come mai in Serbia riusciva ad arrivare? Come vi avevo già detto, appunto, c'erano questi dischi masterizzati che si vendevano per pochi soldi anche per le strade. Noi eravamo, cioè, io mi considero anche fortunata di aver avuto l'opportunità di averli, ascoltarli proprio nel momento attuale, farmi la cultura e, cioè, farmi crescere anche dal punto di vista musicale all'epoca, che sembrava un'epoca talmente buia e isolata. Come dicevi, cioè, stiamo parlando fino adesso piuttosto dei gruppi di Belgrado, dei gruppi anche della Serbia, ma adesso volevo fare un salto in Croazia e farvi sentire il musicista che si chiamava Dino Dvornik, un cantante funk, pop, techno di Spalato. Lo chiamavano anche King of Funk, Croatian King of Funk. Questa sarà la sua canzone, che si chiama Africa, che è stata fatta nel 1997. Lui era famoso per le sue esibizioni dal vivo molto energetiche, i testi molto intelligenti, con un contenuto importante, ma anche per una vita sfrenata, uso della sostanza, eccetera. E appunto Dino è morto nel 2008. Allora, adesso dopo la Croazia facciamo un salto in Montenegro. L'artista più famoso, ma anche adesso, di Montenegro si chiama Rambo Amadeus, un grande artista provocatore con i testi satirici al quale piace criticare la natura umana e il sistema politico. Nella sua musica lui combina lo jazz con rock, hip hop, drum and bass, eccetera. Anche lui è famoso per i suoi concerti perché è per la improvvisazione nella scena. Lo paragonano molto spesso a Frank Zappa, per dire. Mi sembra che era 2 anni fa, appunto, che ha rappresentato anche Montenegro nell'Eurosong, ma anche quello era una forma della sua ironia. Adesso ascoltiamo una canzone che ha fatto nel 1997, che si chiama Allo Požega, molto molto interessante. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Allo Požega. Allo Požega. Alo Požega! Požega, javi se! Carica je jedna što mi je poginula u Četi, pošla je s nama iz Beograda, Cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona je imala ranac na sebi, kad je pošla ja sam rekla, Cica, molim te, ranac taj nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako to, ponela garderobe, papuča, cipela, šminke, sada. Ja kažem, ostavi to, molim te, cica, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili, prva njena borba na frontu, ona taj randac njena, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, od blata. A ona nije mogla da legne, nego sela, to je njena prva borba bila. Ja kažem, cico, lezi. Ja kažem, cico, lezi. Ja kažem, cico, lezi. A ona nije mogla da legne, nego sela. Ja kažem, cico, lezi. Alo, Požega! Ja kažem, cico, lezi. Alo, Požega! Ja kažem, cico, lezi. Alo, Požega! A ona nije mogla da legne, nego sela. Požega, javi se! Che bella cosa, una giornata al sole, l'aria è serena, dopo la tempesta. Che bella cosa. Chico, stavo a levarti fuori. Samo ovaj lebac tvoj. Moj, pa šta? Čiko, samo ovaj lebac tvoj. Moj, pa šta? Pa zašto ga ne jedeš, Čiko? Požega, javi se! Ja kažem, cico, lezi. Alo, Požega! Ja kažem, cico, lezi. Alo, Požega! Ja kažem, cico, lezi. Alo, Požega! A ona nije mogla da legne, nego sela. Požega, javi se! Quarta lezione. Che bella cosa, una giornata sole, l'aria è serena, dopo la tempesta. Che bella cosa. Bravo, è molto allegro stamattina. Ja kažem, cico, lezi. Alo, Požega! Ja kažem, cico, lezi. Alo, Požega! Ja kažem, cico, lezi. Alo, Požega! A ona nije mogla da legne, nego sela. E E allora adesso ascolteremo un po' di rap, ovvero hip hop. 1996 è il gruppo che si chiama Sunshine. Ci trasferiamo di nuovo in Croazia. La band si chiama Kud Idioti, ovvero Società Artistico-Culturale Idioti. È una band punk rock di Pola, Croazia, famosa ormai negli anni 80 anche nell'intera Jugoslavia. Operano anche durante la guerra, infatti Istria e Fiume durante la guerra erano tra le poche zone calme in Croazia dove ci si riusciva a fare un po' di vita più o meno normale, e tra l'altro sono le parti che erano da sempre molto rock, con diversi gruppi importanti. Nel 1994 Cudi Dioti si esibiscono in Ljubljana, quindi durante la guerra che non era ancora finita, come il gruppo che apre il concerto dei Ramones. Cudi Dioti, adesso ascolteremo la loro canzone che si chiama Za tebe, ovvero Per te, 1993. Sono circa le 22 qui a Radio Città del Capo, una puntata ambientata in lande che non frequentiamo molto spesso, molto vicina a noi, appunto, come diceva prima il dottor Scarpa, ma così lontano in quegli anni dove, causa embargo, causa guerra, sì, si parlava di guerra, ma non arrivava poca musica. Per fortuna Caterina è qua con noi e ci fa sentire un sacco di roba che io non ho mai sentito, non so voi, gentili ascoltatori e ascoltatrici. Allora, abbiamo appena ascoltato punk rock della Croazia, però negli stessi anni, appunto nel 93, in Croazia fiorisce anche la scena della musica dance, come anche sul livello internazionale. E quindi una delle canzoni più famose era la canzone che si intitola Take Advantage Sati del gruppo E.T., che è stata fatta nel 1993, e questa canzone particolare perché ed è importante perché è stata la prima di attraversare le barriere e diventare famosissima anche nella Serbia. Electro. È proprio vero, la dance travalica ogni confine, dalla techno in giù. Sì, sì. Adesso cambiamo un po' il genere, ascoltiamo Darko Rundek, il vocale del storico gruppo Haustor, che dopo essersi trasferito in Francia durante la guerra fa il suo primo solo album che si intitola Apocalypso, con la partecipazione di più di 20 musicisti, un misto di diversi generi musicali che ha ottenuto delle ottime critiche. Rundek è stato anche uno dei primi artisti croati ad iniziare a fare i concerti a Belgrado. ti si premlada, a ja sam prestar za čekanje. Miris u zraku mekan je, od kada tvoje sreo sam oči, sanove noći počinje. Apokalipso sviraju crni i znojni anđeli, adesso passiamo, stiamo parlando sempre dell'anno 1996, perché è l'anno dopo la guerra ed è stato un anno abbastanza produttivo anche dal punto di vista musicale, e con il 96 inizia anche la seconda parte degli anni 90. Adesso vi voglio far ascoltare un gruppo di Belgrado che si chiama Darko Dub, nascono nel 92 e sono attivi anche adesso. Fanno la musica di electro rock, rock psichedelico, indie rock e così via. Fanno i concerti non solo in Serbia ma in tutti i Balcani, Austria, Slovacchia, Ungheria, Polonia eccetera, quindi sono abbastanza diffusi, diciamo, in quel, su quel territorio lì. Ascoltiamo adesso il brano che si chiama Un Nedogle dall'infinito, dall'album del 1996. Thank you. kakva divna muzika udara i dugo odzvanja, udara i dugo odzvanja. U nedogled, u nedogled, u nedogled, u nedogled, u nedogled, u nedogled, u nedogled, u nedogled, u nedogled, u nedogled, u nedogled, u nedogled, u nedogled, u nedogled, u nedogled. Beh, siete ancora su Radio Città del Capo, questa è This Is Not An Exit. Se vi è piaciuta questa puntata, se vi piace questa puntata, potete trovare dischi di questa epoca più o meno, proveniente della ex Jugoslavia in un negozio... soprattutto degli anni 80, scusami se ti interrompo. Sì, soprattutto degli anni, soprattutto della New Wave, anni 80, in un negozio di dischi che si chiama Transformer, che è in via Cesare Battisti. Dico esatto, bene, Caterina? Esatto. Facciamo la mostra che inauguriamo il 25 marzo e poi che durerà sicuramente 15-20 giorni con alcune scritte, spiegazioni e le copertine degli album che hanno segnato l'epoca e che hanno anche molto spesso un contenuto politico. Una piccola chicca, roba che si vede abbastanza di rado, direi. Vabbè, adesso vorrei parlare della band che si chiama, ha un nome strano, Kanda Koja e Nebojša. Questa band nasce nel 91, fanno praticamente un mix del rock alternativo, reggae, elettronica, acid jazz, e subito dopo aver fatto le prime canzoni si fermano perché il frontman va negli Stati Uniti, poi torna nel 1994 e continuano a fare la musica e diventano sempre più famosi. I testi delle loro canzoni e le loro esibizioni dal vivo hanno fatto un ruolo abbastanza importante durante la rivoluzione e le proteste contro Slobodan Milošević, il presidente della Serbia all'epoca, negli anni 90, che ha abbandonato questo ruolo dopo la rivoluzione del 5 ottobre del 2000. La canzone che ascolteremo si chiama Passeranno anche loro, Procić i Njihovo. Questa canzone aveva il carattere appunto politico ed è una canzone del loro album quello che ha avuto più successo del 1998. Poi appunto, visto che con questa canzone possiamo collegare la rivoluzione anni 2000 eccetera, l'ho scelta come l'ultimo brano per concludere questo percorso degli anni 90. Thank you. questa era una delle mie canzoni preferite, grazie di avermi dato l'opportunità di metterla. Adesso c'è Matteo che vorrebbe dire qualcosa, vorrebbe salutarci. Solo una cosa, Jeben Tibog. Beh, comunque sia, grazie a te Catarina di essere stata qua in studio con noi. No, così abbiamo finito il ciclo, abbiamo visto qualcosa è cambiato effettivamente nella produzione musicale dagli 80 ai 90. Sì, decisamente, sì, no, grazie a voi e grazie a voi che ci avete seguito e grazie di nuovo alla Radio Città del Capo che mi ha dato l'opportunità di esprimere e trasmettervi la musica dell'ex Jugoslavia. Ciao. E con questa buonanotte a tutti, buon ascolto con Radio Città del Capo e a risentirci con This Is Not An Exit giovedì prossimo sempre alle 21.05 o giù di lì.